Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Giuseppe Fiorino, 64 anni di Marsala, sentiva discutere spesso i suoi vicini di casa. Era già intervenuto per riportare la pace in quella coppia. Ieri sera lo ha fatto di nuovo, forse per difendere la donna dalla violenza del convivente. Ha chiamato persino i carabinieri. Venite, ha detto, i miei vicini stanno litigando. Pochi attimi dopo, forse proprio quella telefonata o chissà cos'altro, ha portato Giuseppe Francesco Lombardo, cinquantenne disoccupato incensurato, sotto gli occhi della compagna, a colpire con una bottiglia alla testa più volte 64. Uno scatto d'ira feroce senza alcuna pietà. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, attorno alle 22.15, due giovani a bordo di un furgone avrebbero iniziato a fare alcune manovre spericolate nel parcheggio innevato dell'hotel dove ha sede il locale club di bikers del Hells Angels Motorcycle, innescando un diverbio con alcuni avventori appartenenti al gruppo di motociclisti. Dopo la lite sul piazzale, i due giovani uomini si sono allontanati, raggiungendo casa, per tornare poco dopo armati di pistole e accompagnati dal padre di uno di loro. I ragazzi hanno quindi sparato 7 colpi in direzione dei motociclisti, colpendone uno alla testa ed allontanandosi ad alta velocità in auto, investendo un 51enne che ha riportato contusione. Sembra qualcosa che riguarda tempi passati. Siamo in una forma di civilizzazione che almeno l'apparenza è molto sterile, asettica, abbastanza prevenuta verso quello che è lo scontro fisico, anche se continuamente leggiamo sui giornali di persone che massacrano altre persone, ma nel contesto sociale è perfettamente normale, quello in cui tutti noi siamo inclusi. Avete sentito anche la notizia poco fa al giornale radio, una donna rinchiusa, malmenata, tenuta in prigionia, ma accade ogni giorno nell'indifferenza generale che si legga di persone massacrate di botte. Può avvenire in famiglia, può avvenire tra coniugi, può avvenire fra persone che tra di loro hanno un rapporto, può avvenire anche tra perfetti sconosciuti. Noi siamo abbastanza impreparati a gestire quello che è lo scontro fisico. Primo perché nella maggior parte dei casi, se ne è testimone chi parla in questo momento al microfono, non siamo abituati, fa parte di un retaggio arcaico, lontano, per qualcuno agli anni dell'adolescenza. Scusate, l'adolescenza, della giovinezza, per altri agli anni eroici degli scontri studenteschi, ma chi mai è abituato a fare a botte? A rispondere uno che ti mette le mani addosso, a uno che ha una tua domanda, a un tuo qualsiasi atteggiamento civile risponde picchiandoti? Beh, difficilmente, salvo le persone che hanno addestrato il loro fisico e i loro sensi a questo tipo di incontro. Eppure accade. Può accadere a ognuno di noi, può accadere nei contesti più impensabili, può accadere per un'infinità di ragioni. Si incontrano persone sotto il livello medio di civilizzazione, si incontrano persone con patologie particolarmente spiccate che li portano ad essere aggressivi, si incontrano persone che fanno della violenza fisica una loro ragione di vita. In quel caso come si reagisce? 800 24 00 24. Vi raccontiamo una storia, anzi ve la facciamo raccontare di prima persona e aspettiamo le vostre storie. Melog. Cronache meridiane. Alla fine ha ceduto, ha ammesso di aver usato una torcia per colpire un suo coetaneo giovedì notte a Trastevere, in uno dei quartieri più noti della capitale, e l'ha fatto per futili motivi. Non una guerra fra bande, non mafia o 'ndrangheta, non motivi economici, droga o chissà che altro. No, qui c'entra solo il banale litigio dai contorni esagerati, questo sì. Le due vittime, due ragazzi come lui di 26 e 30 anni, potevano anche morire. Aeroporto di Forlì. Secondo la prima ricostruzione fatta attraverso le testimonianze degli altri viaggiatori, Paolo Petrozzi, 39enne pugliese residente ad Ancona, lascia la fila per andare in bagno e al suo ritorno vuole rimettersi al suo posto, proprio davanti Gennaro Iennaco, 38enne di San Giuseppe Vesuviano nel Napoletano. Nasce un litigio, qualche spintone, poi i pugni. Petrozzi ha la peggio, viene steso e perde conoscenza. Il suo aggressore rimane lì intorno, quasi non rendendosi conto della gravità. 800 24 00 24. Quando leggiamo di questi episodi sui giornali pensiamo sempre che possa accadere soltanto agli altri. Pensiamo sempre che le persone che noi frequentiamo, l'ambiente che frequentiamo, dico nella maggior parte dei casi, ci renda immuni o perlomeno ci tenga lontano da certi episodi. Perché una persona dovrebbe picchiarmi? Perché dovrebbe mettermi le mani addosso? Perché io dovrei entrare nell'ordine di Dio e dovermi difendere da qualcuno che mi mette le mani addosso. A me, se non concesso, sia capace a difendermi, che sia una persona spregiudicata, che sia capace di sradicare un cartello stradale e difendermi anche da una decina di aggressori, perché dovrei farlo? Sono una persona civilizzata, non credo che l'uso delle mani appartenga al tempo in cui sto vivendo. Ho varie altre maniere per difendere le mie posizioni, il mio modo di pensare, le idee in cui credo. Perché dovrei correre alle mani? Perché ogni tanto accade che qualcuno per strada ci metta le mani addosso e noi non capiamo perché, e difficilmente capiremo perché, se siamo entrati in questo ordine di civilizzazione per cui le mani addosso non si mettono, un antico e sacro principio con cui eravamo educati noi da bambini. Luca da Roma, buongiorno. Buongiorno a tutti. Innanzitutto chiedo scusa per l'emozione, ma sentire tutto questo è ancora abbastanza fresco per me, quindi vi ringrazio anche per l'opportunità della testimonianza. La presentazione è stata perfetta, è esattamente il mio caso. Ero titolare di un'edicola a Roma, sono stato vittima e ho assistito anche poi negli anni a diversi episodi di violenza. Non pensavo, né avrei mai pensato, che potesse capitare a me. Allora Luca, perché... cominciamo a capire, quanti anni ha lei Luca? Io ho 34 anni. Fisicamente com'è messo? Gracilino, ecco, diciamo che sono l'antiviolenza per eccellenza. Cioè quello che direbbero una mezza pippa, tanto per dirla alla romana. Praticamente, anche ecco. Quasi una intera, cioè. Ha lo sguardo sprezzante, atteggiamenti spavaldi, no, è un provocatore? No, assolutamente no, classico soggetto con occhiali che probabilmente istiga forse alla violenza per la sua debolezza, ma abitualmente persona socievole e pronta alla socializzazione, come il tipo di lavoro che facevo richiedeva, era una passione per me, un divertimento quasi. Può dirci che lavoro facevo o ci fa capire più o meno in che ambito? Ero un edicolante, ero titolare di un chiosco di edicola ed è successo proprio lì. Allora io capisco, siccome l'episodio che ci sta per raccontare quel testimone ha naturalmente uno strascico giudiziario, rispetto alla sua riservatezza, mi dirà nei termini di quello che vuol dire, come vuol dirlo, che non vogliamo creargli altri problemi. Racconti cosa è accaduto un giorno quando innanzitutto, più o meno? Un giorno di 2 anni fa è accaduto che io ero sul posto di lavoro, un chiosco aperto, ero la parte esterna, per chi conosce il mestiere. La mattina gli edicolanti sono impegnati nel servizio di resa, quindi togliere... Fare i pacchi dei vecchi giornali. Pubblicazione vecchia, esatto, per mettere a posto quella nuova. Quindi io ero all'esterno dell'edicola e passa questo ragazzo, mio coetaneo, era con 2 cani, mi passa alle spalle, se non che uno dei 2 cani mi passa vicinissimo, io ero di spalle, alle 7 del mattino, senti un rumore, ti viene istintivamente di voltarti per vedere che cos'è. Vedo un cane, io personalmente ne ho 4, quindi li adoro, e quindi ho sorriso senza neanche istigare nulla, senza dire una parola che potesse essere confusa, fraintesa, nulla. Ho semplicemente sorriso al cane perché ero concentrato sul mio lavoro. Ed un tratto questo ragazzo ha cominciato a inveire, a minacciare, sostenendo che io avrei detto qualcosa a questo cane, che avrebbe in teoria fatto qualcosa, non lo so, che avrebbe fatto pipì, non so che neanche che cosa ha farneticato esattamente, cioè, in quel momento. Pensava che lei si fosse in qualche maniera urtato del fatto che il cane avesse fatto la pipì sul pacco dei giornali. Sì, tra l'altro non cosa che a mio avviso non credo che abbia fatto, nemmeno se ne era accorto, interessata, perché il cane se ha quella necessità fisiologica in quel momento, ma come glielo dici? Ecco, a Roma questo può accadere continuamente, ma se fai quel lavoro ne sei pienamente consapevole e quindi lo accetti e sai, magari poi tra l'altro è anche costume per chi è nel commercio mantenere sempre una linea abbastanza serena con chiunque potrebbe essere un cliente. E niente, ragazzo, cioè in ogni caso lui pensava che avesse insultato il suo cane, ecco, questa è la ragione. Esattamente, tra l'altro questo lo ricordo bene, diceva che anche in passato io l'avrei fatto, questa invece era la prima volta in cui io vedevo questo ragazzo. Quindi c'era un retropensiero, dice già prima l'hai fatto. E mi sono reso conto effettivamente che, cioè, inizialmente sorpreso, pensavo scherzasse perché avevo un rapporto gioviale con la clientela, molto molto scherzoso. Invece poi quando lui si è avvicinato, minacciandomi, il volto non era proprio di una persona tranquilla e serena, anzi credevo che fosse sotto effetto di stupefacenti, perché veramente esagitato. Era un po' esagitato, quindi ho capito che... Ho capito la situazione e ho pensato stupidamente, ingenuamente, di riuscire a gestirla così come ero stato educato da mio padre. Cioè come una persona, appunto, come è stato detto prima in radio, come una persona non abituata alla violenza, a trovare una soluzione pacifica anche nel momento in cui davanti a una persona che ti sta aggredendo senza motivo. Lei aveva capito comunque che stava per scattare, ecco. In quel momento sembrava di sì, ma credevo di riuscire a calmarlo ed ero convinto di esserci riuscito, nel senso che dopo averlo avvisato che se non l'avesse fatta finita avrei chiamato la polizia, solo dopo che ho effettivamente chiamato una volante dicendo: signori, guardate che c'è una persona che mi sta minacciando, cortesemente mandatela qui. Io però da pacere, quale sono sempre stato, ho cercato di spiegargli: vedi, adesso tocca spiegare alla polizia che non è successo niente, ma ti conviene all'età tua rompermi le scatole, adesso dovremo raccontare che è tutto finito. E sembrava si fosse calmato, se non che da un momento all'altro si è scatenato, come, questo è un esempio che uso di solito, come se gli avessi ucciso la madre davanti, perché era una rabbia feroce, ingiustificata, ha sfogato probabilmente sue frustrazioni, non lo so. E cosa le ha fatto? Io al momento ho tre placche in titanio in faccia che mi mantengono la mandibola intatta, ho un'invalidità permanente al labbro per 6-10 punti percentuali, una frattura bifocale appunto alla mandibola, sono fracassato e ancora ad oggi, al di là della mancata sensibilità a parte del labbro, ho dolori lancinanti, io non ho, ogni volta che cambia il tempo, io non posso essere esposto all'aria aperta per troppe ore, se devo stare chiuso dentro quattro mura la maggior parte della giornata, perché il dolore è ancora troppo forte. E ancora, ma l'ha picchiato con degli oggetti o con le mani nude? No, mani, con una certa insistenza. Era particolarmente robusto per fargli dei danni del genere? No, o sono particolarmente, oddio, da quello che mi hanno spiegato, avendomi colpito in maniera totalmente imprevista, nel senso, io ero quasi di spalle quando ha cominciato a scaricare, mi giravo quasi verso di lui, sono andato incontro al primo pugno, dopodiché la mia reazione da persona completamente non abituata, non capace, neanche riuscivo a concepirlo quello che stava succedendo, l'unica cosa che ho fatto, ho provato ad avventarmi contro di lui, ma sono l'antilotta per eccellenza, come già detto. Beh, e lui ha continuato a scatenarsi, con una mano mi teneva e con l'altra mi picchiava e ha unito calci e pugni, sono stati attimi, cioè è stato un pestaggio vero e proprio. Esatto. Ecco, ma non trova, che sia folle dal momento sta per venire la polizia? Cioè, come contava di uscire, indenne da questo pestaggio? Non lo so, ma non è una persona, poi dopo ho provato a capire, perché quello che è veramente assurdo è che cosa che ti lascia scioccato, e anche perché se tu sei abituato a un'altra concezione del mondo, qualcuno può arrivare in quel momento e fare quella cosa, che cosa la fa scattare una simile rabbia? Io una giustificazione ad oggi non l'ho trovata. Mio padre, mentre io ero in ospedale, andò in questura a chiedere informazioni, sembra che la giustificazione che diede il ragazzo fu: non avevo dormito tutta la notte, ero rimasto a parlare con gli amici, ero un po' nervoso. Ma la polizia poi è venuta, l'ha trovata in quelle condizioni? Mi ha trovato in quelle condizioni, mi ha chiamato l'ambulanza, l'hanno preso il ragazzo, perché appunto io avendoli chiamati prima sono stati in grado È stato arrestato data la flagranza del reato? Sì, tra l'altro adesso devo anche rispondere di una sua controdenuncia, perché non lo so, io adesso tendo molto a scherzarci perché ci ho pianto abbastanza. E perché l'ha controdenunciata? E non lo so, forse la mia faccia era troppo dura. Vabbè, quello sono gli avvocati che chiaramente poi trovano tutti gli escamotaggi. No, il consiglio penso neanche troppo valido del suo avvocato, sì. In questo momento, la persona che l'ha massacrata che fine ha fatto? Dove sta? Ne ha notizie? Gira, io ho dovuto chiudere l'edicola perché vivevo al di là del dolore che provavo lavorando all'aperto. Io ho resistito per un anno intero dopo l'accaduto, e però giorno dopo giorno i problemi nella vita privata hanno cominciato a uscire fuori, soprattutto a livello psicologico. Beh, ci credo, cioè, è come se fosse passato un treno addosso, ancora devi capire perché. Quindi ha chiuso la sua attività? Lei ha chiuso la sua attività per colpa di questo? Io ho chiuso la mia attività perché mia moglie, che ha cominciato, tra l'altro io sono sposato pochissimo tempo dopo, e in poco tempo io ho dovuto dormire lontano da mia moglie, perché non, la notte urlavo come un ossesso, perché rivivevo continuamente quegli istanti. E quando ero convinto di averli superati, mi sono reso conto in alcune piccole, piccolissime circostanze di vita normale che erano prima, veramente non potevano scaturire niente, e invece poi ho visto che vivevo uno stato d'ansia continuo. Ad esempio, si presentava una persona in maniera troppo irruente in edicola, scattavo, andavo subito a prendere qualcosa che potesse difendermi, piuttosto che se assistevo a litigi per strada, e se ne vedono veramente solo una cosa, prima di fermarci per la pausa, poi continueremo nei particolari. Allo stato dell'opera, dal punto di vista proprio giudiziario, quest'altro, questo suo aggressore, cosa sta facendo? Aspettando un processo? E lei in qualche maniera è stato risarcito? C'è l'ombra di un risarcimento di qualunque tipo nei confronti? No. Niente? No. Dopo magari ne parleremo nel dettaglio, perché ho dovuto anche dimostrare che il danno era più grave di quello che si pensasse. C'era un piccolissimo errore, nel senso, l'accusa inizialmente era per lesioni lievi. Come con tre placche in faccia, lesioni lievi. Le lesioni lievi sono dopo 10 giorni, se non sbaglio, lesioni gravi. Entro i 40 giorni. Ah, 40 giorni. Io a distanza di tempo ho dovuto dimostrare, tra l'altro con una certa forza, nel senso che mi sono rivolto a diversi ospedali pubblici e privati per far vedere come effettivamente io abbia la masticazione gravemente lesionata. Ma scusi, lei ha delle protesi, è un'invalidità, quelle mica se le inventate. Esatto. E tra l'altro, quindi adesso per carità risponderà di lesioni gravi, quindi il cambio del capo di imputazione c'è stato. Fatto sta che non le nascondo che da diversi addetti ai lavori, diciamo così, sono stato consigliato da subito di non fare nulla, di piuttosto magari io ho insistito perché per fare un processo penale, per carità, d'ufficio, perché si tratta di aggressione. Però per fare una mia denuncia penale, portare avanti il processo in questi termini, non solo perché avendo indagato sul ragazzo so che è nulla tenente, disoccupato, e se è così non la pagherai, se non, a meno che io non ti segua vita natural durante. Sì, ma non, se queste cose non accade mai. Allora fermiamoci un attimo, prenda respiro un attimo, abbiamo capito. Un signore, un ragazzo è stato massacrato di botte per motivi ancora comunque non definiti, ma comunque futilissimi, massacrato con lesioni permanenti, delle placche in faccia, sarà sicuramente segnato per tutta la vita. Il suo aggressore tranquillamente gira nei dintorni del luogo dove lui lavorava, lui è rimasto scioccato. La giustizia in questo momento sembra ferma. Per farvi capire che molte volte, se si incorre in qualcuno che sta per metterci le mani addosso, forse la cosa migliore è non parlarci, ma scappare a gambe levate. Questo lo suggeriscono anche maestri di arti marziali. Meglio sempre evitare il combattimento, lo scontro, piuttosto che farlo, anche se si è sicuri di sé. Ci fermiamo per un istante, 800240024. Tra poco sentiremo anche le testimonianze di altri ascoltatori che hanno avuto storie simili o devono intervenire su questo problema. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presento. Sono Enrico Ruggeri. Oggi raccontiamo al Falco e il Gabbiano la grande sfida tra Cesare Maestri e la montagna del Cerro Torre. Un sogno diventato un'ossessione. Vi aspetto alle 15.30 al Falco e il Gabbiano su Radio 24. Melog. Cronache meridiane. Ha fatto finta di avere una pistola, ha messo la mano dietro la schiena e ha minacciato di esplodere un colpo. E così per difendermi sono scappato e l'ho investito accidentalmente. Un operaio romano 28enne ha confessato di essere stato lui lunedì scorso a ridurre in fin di vita Tiziano Vitali al termine di una lite per motivi di viabilità a pochi passi dall'Eur. È ancora una strada di Milano ad aver fatto da sfondo all'ennesima esplosione di violenza, ancora una lite per un sorpasso ad aver innescato un'ira incontrollata. Sono stati superati da una Matiz. 800240024, siamo partiti con la testimonianza di un giovane di Colante che è stato massacrato di botto. Un episodio banale, ha incontrato una persona che probabilmente non era in grado di gestire la propria aggressività, aveva dei problemi, non aveva dormito tutta la notte, come ha detto. Sono fatti che riguardano poi l'iter giudiziario. Sta di fatto che ha incontrato una persona che appartiene a un'altra civiltà, a un altro modo d'essere, a un'altra maniera di concepire il quotidiano, l'esistenza, i rapporti con i nostri simili. Ne è uscito massacrato. Un ragazzo che non aveva nessuna attitudine allo scontro fisico, infatti gli ha spaccato la faccia, delle placche in faccia, ha interrotto la sua attività professionale, vive ancora terrorizzato e scioccato da questa vicenda. Sentiamo se tra gli ascoltatori esistono vicende assimilabili o perlomeno danno l'idea dell'improvviso sentirsi proiettato in un'altra dimensione che non è quella del tempo in cui stiamo vivendo. Maurizio, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, saluti a te e agli ascoltatori. Sì, volevo riportare un episodio che purtroppo mi è accaduto e del quale certamente non mi onoro, anzi mette sempre un certo disagio ogni volta che ci ripenso. Semplice metropolitana rossa Milano, ora di punta, pieno, sedili, sai, quelli a quattro, due di fronte agli altri, e in uno di questi sedili un ragazzo con i piedi messi sull'altro sedile. Accanto a me, in piedi, una signora anziana, con buste, veramente poverella, stava nella situazione. Mi sono rivolto a questo ragazzo, devo dire in maniera abbastanza brusca, dicendo: tira giù i piedi e fai sedere la signora. Questo si gira con il collo, neanche alza la testa, si gira con il collo, tira fuori dalla tasca un coltellino, non era un grosso coltello, un coltellino, e mi dice testualmente: fatti i cazzi tuoi, se no ti sfreggio. Ti dico la verità, mi sono sentito oggetto di violenza e purtroppo è scattato il contrario, sono diventato soggetto di violenza, perché senza rendermene conto, è inutile che uno dice no, ragionavo, no, si è visto rosso proprio, letteralmente, l'ho preso per il collo e per la spalla con le due mani, l'ho strattonato violentissimamente in mezzo alla gente che ha cominciato anche a preoccuparsi, a gridare, e l'ho sbattuto contro la porta della metropolitana, che combinazione, quando si è aperta ha ritrovato questo ragazzotto per terra, con il culo per terra, con gli occhi sbarrati che mi guardava come un mostro, e lì mi sono reso conto che purtroppo il mostro effettivamente era entrato in me. Questo, quindi vedi come si può diventare. Ma questo è l'altro aspetto. Allora, lei di fronte a un atteggiamento aggressivo, spavaldo e criminale, ha visto rosso, evidentemente aveva facoltà fisica e capacità di reazione tale, ha fatto quello che mai bisognerebbe fare, nemmeno se si fosse cintura nera di karate, secondo me, di fronte a uno col coltello. Comunque si è reagito, gli ha dato del suo. Questo ragazzo ha capito che un'altra volta, prima di tirare fuori il temperino, deve valutare la persona che ha davanti. Il resto della popolazione con la metropolitana come ha reagito? Questa è la mia curiosità. Ecco, la reazione è stata duplice. La prima è di dire: ah, ha fatto bene questi delinquenti, e poi però, signore mio, stia attento, perché questi, tra drogati, tra cose, veramente poteva farle male, poteva ferirla, però bisogna farla finita con questa maleducazione, con questa violenza di questi giorni. Però ti devo dire la verità, ero io che mi sentivo male, male nel senso, mi ero reso conto dopo, da quello che... Ma lei, Maurizio, è una persona che ha fatto sport, attività fisica, è capace a picchiare una persona, o si è scoperto che improvvisamente questa risorsa le è venuta fuori così, proprio nel momento del pericolo? Guarda, quasi come l'altro ascoltatore, sono una persona assolutamente pacifista, assolutamente non violenta, però il fisico, a differenza dell'altro ascoltatore, mi assiste. Quindi, oltretutto, la stupidità di questo giovanotto, che peraltro era un ventenne, ma di questi sul tisico andante, e beh, insomma, diciamo che io stazzo molto meglio, ho giocato anche a rugby. Vabbè, ecco, allora, ragazzi, lei ha la mano pesante, lo sa benissimo, però non si è fatto impensierire dal temperino, ha fatto un atto comunque rischioso, ma sapeva che se faccia tanto di mettergli le mani addosso, poveretto quello, quindi lei era favorito dal fisico. Grazie. Maria, buongiorno. Maria. Buongiorno. La testimonianza che voglio portare io ha due valenze, prima di denuncia e l'altra è un po' di speranza. Si tratta di questo, la storia è tragica, veramente tragica, perché si tratta di mio figlio che ha 30 anni, 6 anni fa, mio figlio ipoudente, impegnato, oltre che al lavoro, in una società umanitaria, un'associazione umanitaria. Un sabato sera è andato senza il suo apparecchio acustico, ipoudente dalla nascita, ma senza l'apparecchio acustico, perché era andato con gli amici in un locale a sentire musica dal vivo, e l'apparecchio acustico, per quanto sia un meccanismo molto sofisticato, gli avrebbe dato fastidio, amplificando troppo i rumori, i suoni e quant'altro. Al rientro alle 2 di notte è stato massacrato con un danno permanente grave alla mandibola, fratturata in 6 punti e 8 denti rotti. Da chi? Da chi non si sa. Le due persone che hanno chiamato prima almeno sanno chi è stato ad aggredirli. Noi non lo sappiamo. Non sappiamo chi ha rovinato la vita del nostro figlio e la nostra. Cioè è stato massacrato un ragazzo con una disabilità, sì, non sa manco perché. Per quale ragione? Crediamo, anche la polizia ha avanzato questa ipotesi, che questo rapinatore, perché poi di fatto a mio figlio sono mancati quei pochi soldi, aveva neanche 40 euro in tasca, e il cellulare. E quindi immaginiamo che questa persona abbia seguito nostro figlio, il quale ricordava subito dopo lo shock, subito dopo il ricovero in ospedale, ricordava qualcuno dietro di sé su un marciapiede che lui ha attraversato. Era ormai sotto casa quando è successo l'episodio. L'ha di fatto, l'ha trovato la portinaia dello stabile alla mattina alle 6. Questo è un altro caso. Solo velocemente, proprio in 30 secondi, poi passiamo la linea. Daniele è un insegnante di arte difensiva. Sì, buongiorno. Il primo consiglio è darlo in 10 secondi, poi la risento dopo la pausa. Mai reagire se c'è la possibilità di evitare, solo estrema necessità, solo per difendere un familiare, ma mai, c'è sempre il modo di evitare, sempre, al 99% c'è modo. Quando arriva la colluttazione c'è stato quel momento di indecisione, quel momento di oddio, adesso reagisco, adesso ci provo, adesso lo calmo. No, le persone così non hanno, che fanno così, non hanno nulla da perdere. Allora resti lì, lei da questo momento è nominato nostro esperto. Questa è una trasmissione fatta senza esperti, ci serve una persona che comunque dia delle risposte. Il signore energumeno grosso, ex rugbista, con il fisico, ha osato anche di fronte al coltellino dello sfigatello dentro la metropolitana, e l'ha preso e l'ha sbattuto al muro, rischiando, secondo me, perché anche un coltellino può far molto male, ma in quel caso ha reagito. Il nostro esperto istruttore di arte di difesa ci dice comunque reagire è la maniera più sbagliata, salvo essere proprio con le spalle al muro. Ci fermiamo un istante, a tra poco. Melog, cronache meridiane. 800240024, stiamo parlando di episodi di violenza metropolitana immediata, non prevedibile. Cosa fare? Può accadere che una persona ci metta le mani addosso o ci minacci, anche se noi siamo normalissimi, tranquilli, inermi cittadini. Si può accadere per un'infinità di ragioni. Siamo partiti dall'episodio, il nostro ascoltatore Luca, anzi il nostro ospite Luca, che una mattina è stato massacrato di botte, ne porta i segni addosso, ancora non ha nemmeno capito perché. Luca, cosa c'ha da aggiungere alla sua storia, anche alla luce di quello che ha sentito dai nostri ascoltatori? Da aggiungere, mi ha colpito un attimo la reazione del rugbista. Ho capito che in quel momento effettivamente vedi rosso. Io per totale incapacità non sono stato in grado di reagire, ma la volontà c'era, e devo dire che quello che rimane dopo è un desiderio di rabbia, di vendetta per aver subito un'ingiustizia che non ha giustificazione. Però c'è anche da dire, quando uno c'ha il fisico può anche fare questa scelta. Quando non si ha nemmeno il fisico, onestamente, le parla una persona altrettanto gracile quanto lei, è inutile dire reagisco che... Sì, ma non pensi, come ha detto il signore, non pensi in quel momento, si spegne il cervello. Avessi avuto, ringrazio il cielo di non essere armato, né tantomeno lo sarò mai, però giuro veramente che anche a distanza di tempo mi sarei voluto vendicare di quel soggetto. Poi io quante volte la notte ha organizzato tantissime mentalmente la sua vendetta, pensando tantissime mi è stata neanche suggerita. Non, poi devi fare una scelta che è quella della legalità a prescindere, nel senso, sì, l'avranno consigliato, fallo aspettare sotto casa, paga qualcuno che lo mena, fallo spaccare, tantissime diverse soluzioni, sì. C'è un amico che se vuoi te lo sfascia, queste cose qua, che non vale la pena, anche in virtù del fatto che non vedrò con ogni probabilità né risarcimento né tantomeno la soddisfazione di vederlo in carcere, perché poi, come detto, alcuni addetti al settore mi hanno spiegato che non ci andrà mai più in carcere, chiaro. Bravissimo, sarà estremamente difficile. Il mio unico obiettivo ad oggi è far sì che la condanna ce l'abbia, perché se non vado avanti, se la lascio andare come mi è stato consigliato, lascia perdere, tanto è inutile, è solo una spesa di soldi. Perché no, anche perché è una mina vagante, nel senso che almeno se accade un'altra volta si sappia che c'era un precedente, mi sembra questo il minimo. Il mio scopo è solo questo, se può essere, se anche deve andare in giro quest'uomo, almeno che abbia il deterrente di anche una condanna sospesa, nel senso la prossima cosa che fai poi le paghi tutte. Almeno che abbia questo deterrente, quindi non lo faccio più per me, non è più, ho accantonato la vendetta, sebbene ci sia la frustrazione di danni che porterò ogni singolo giorno, io penso a quest'uomo. Allora, sentiamo un attimo Leonardo, sì. Buongiorno. Buongiorno. A lei cosa è accaduto? Ah, dunque, a me è accaduto, stavo pensando a Daniele, mi dispiace molto per Luca per quello che è successo, stavo pensando a Daniele che ha detto che specialista in arti marziali, giusto? Sì, sta ascoltando. E quindi mi riferisco a lui perché io sono a cintura nera di Kung Fu e quindi mi è capitato 6 mesi fa di avere un diverbio automobilistico con una persona che poi la sorpresa è questa, la persona con cui ho avuto il diverbio. E niente, mi ha tagliato la strada, stavo andando a lavare la macchina, mi ha tagliato completamente la strada senza fare lo stop. Io ho inchiodato questa 500, mi sono intraversato quasi con la macchina e con la mano l'ho mandato a quel paese. Lui ha visto il gesto, si è fermato in mezzo alla strada e ovviamente sono sceso anch'io, perché sono alto 1,90, sono 90-85 kg, non avevo nessuna paura di nessun genere, bene o male. Era pronto a affrontare la rissa, diciamo. Sì, ma generalmente parlo se devo discutere con qualcuno. In quel momento. Ma vale la pena, secondo lei, vale la pena? Adesso, messo lei sarà la super cintura di Kung Fu e lo poteva stracciare, vale la pena scendere la macchina? Sì, ma io ho 53 anni, Vabbè, che vuol dire? È questo il problema. Scende un ragazzo di 30 anni dalla macchina, da questa macchina che non dico che marca era. Vabbè, andiamo al punto. Senza dirmi niente, mi ha tirato un pugno sui denti. Eh beh, così si fa. Chi mena per primo mena due volte. Questa è vecchia. Allora, io ho pensato, siccome l'ho visto bassotto, me la sentivo volendo di... Ma il pugno l'ha arrivato, nonostante la cintura nera il pugno se l'è preso. Me lo sono preso e bene anche, però... Allora scusi, tutti gli anni di arte marziale cosa sono serviti? Io sono stato abituato dai miei insegnanti, quando ero più giovane, di non reagire se fosse capitato una lite. E infatti mi riferisco a Daniele, che lui ha detto... Beh, com'è andata a finire? Ha beccato il cazzotto e che ha fatto? No, ha beccato il cazzotto. Io ho pensato ai miei figli... E non ho reagito. E mentre pensava continuava a menarla? No, a un certo punto prendo in mano il telefono per chiamare i carabinieri, sì. Perché la prima cosa che mi è venuta in mente è di chiamare i carabinieri. Giustamente. Intanto che sto chiamando i carabinieri, mi viene di fianco ancora un calcio in un fianco, mi ha dato di quelli terrificanti. Però scusi, adesso non voglio fare tanti anni di Kung Fu, almeno evitare di essere preso a calci, non dico di reagire. No, ma io non ho sentito, devo essere sincero, non ho sentito niente. Sì, vabbè. Perché bene o male, essendo grande e grosso, diciamo, me la son cavata, perché questo qua era un tappo. Il problema non era quello che mi è capitato a me, nel senso le botte, la volta. Sì, andiamo al punto, sì. Il problema è stato che poi io, quando ho chiamato i carabinieri, sono arrivati, gli ho spiegato cosa è successo, questo qua è scappato. Ho detto, era un delinquente, era una persona... Invece chi era? Poi dopo mi sono recato all'ospedale, eccetera, eccetera, sì. Mi sono fatto visitare per questione. A un certo punto mi viene in mente che questa persona qua mi sembrava di averla vista. E chi era? Lo dica, che manca un secondo. Era un medico del 118 di Piacenza. Vabbè, se si era procurato un paziente in più, almeno cercare di procurarsi questo, un paziente. Ma infatti... L'ha denunciato? Allora, mi sono recato dei carabinieri... Ma vada al punto, denunciato, sì o no? Non l'ho denunciato. Perfetto, siamo arrivati al punto. Daniele, mi aspettavo da lei una lunga consulenza. In cosa ha sbagliato questo maestro di Kung Fu? Secondo me in tutto. Ha sbagliato purtroppo in tutto, perché in realtà... Allora, diciamo le arti marziali, chiamiamoli così. Cioè, la mia idea è che se scendi per combattere, se no allora, stattene male. Come la pistola, è inutile tirare fuori una pistola, dicono ai poliziotti, stare lì, se devi sparare, spari, se no non la tiri fuori. Questo è sceso, cioè, è stato menato, tira fuori il telefonino, tanto vale che rimaneva in macchina. Allora, esatto, cioè chi parte per fare questo parte già per aggredire. Quindi avere queste esitazioni, fare queste cose così di orgoglio che ci stanno perché siamo esseri umani, però non servono a nulla. Andiamo alla massima con cui concludiamo la trasmissione: se vi capita cercate di evitare lo scontro, questa è la vera massima, mi sembra che questo sia il punto. Non ha nulla da perdere, quello è poco ma sicuro. Benissimo, grazie, spero di avervi insegnato qualcosa, se no peggio per voi, alla prossima.